L'India, il blocco, il Kashmir, l'Assam. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. India, a country of 1.3 billion people, has now instigated a lockdown for 21 days. देश भर में जो कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट्स हैं वहां से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स हमसे लाइव जुड़ रहे हैं. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, buon lunedì, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Danilo Di Trani oggi in assistenza e in console Andrea Roccabella. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande via WhatsApp, via SMS. Lo potete fare anche attraverso i social, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Gli account Twitter da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. L'avete sentito dai titoli, quest'oggi dedichiamo l'intera puntata alla situazione in India. Una situazione che a guardare i numeri, soprattutto nei giorni scorsi, lasciava presagire un'evoluzione positiva del virus, ma in realtà la realtà sottostante è potenzialmente molto molto più drammatica. E in una situazione che ha visto un lockdown praticamente improvviso, dalla sera alla mattina ha visto muovere centinaia di migliaia e milioni di lavoratori dentro l'India, treni bloccati, scene veramente di esodi incredibili, migliaia di chilometri fatti a piedi. In tutto ciò vi sono due crisi nella crisi: da una parte il nord-est e l'Assam, dall'altro ancora una volta il Kashmir, che lo ricordiamo dall'agosto dell'anno scorso è praticamente sotto un altro lockdown, quello dell'assenza totale di comunicazioni. Su questo vi invito a commentare. Detto ciò, la prima cosa che faremo è sfogliare i dossier internazionali. Tra i temi cari alla redazione di Nessun Luogo Lontano c'è l'evoluzione in Afghanistan. Come sapete, si era quasi raggiunto un accordo, dico quasi e tra poco capirete perché. Una prima fase dell'accordo è stato siglato a Doha tra gli Stati Uniti e i talebani. Adesso era arrivato il momento dell'accordo più strettamente politico interno afghano tra i talebani stessi e il governo di Ashraf Ghani. Il problema è che i talebani stessi nelle ultime ore hanno accusato Washington di diverse violazioni proprio di quel patto firmato a Doha il 29 febbraio scorso, tra cui una serie di attacchi con droni anche contro i civili. E gli stessi talebani contestano questa volta al governo afghano di ritardare e prendere tempo, a loro dire inspiegabilmente, per il rilascio di ben 5.000 prigionieri, come era stipulato dall'accordo. E sapete che il rilascio dei prigionieri è uno dei nodi forse più fragili, più nevralgici di tutta la trattativa col governo di Kabul. Da parte loro i talebani sostengono di aver assolutamente limitato gli attacchi, soprattutto nelle zone rurali, contro le forze di sicurezza afghane e contro la coalizione internazionale. A questo punto hanno minacciato un'escalation di attacchi se Stati Uniti e governo afghano continueranno a violare, a loro dire, i termini dell'accordo. A loro dire perché lo dico? Beh, semplicemente perché sia Kabul che Washington hanno rigettato al mittente qualsiasi accusa, e questo francamente non è un buon segnale. Adesso vi porto in Messico perché la notizia risale al weekend, in particolare la giornata di sabato, e già vi anticipo che domani, fatto salvo evidentemente la grande attualità internazionale, dedicheremo uno speciale al Messico, perché in particolare lo stato di Chihuahua, nella regione settentrionale del paese, ha visto l'ennesima sparatoria tra bande di narcotrafficanti con un bilancio a dir poco tragico. 19 persone sono rimaste uccise. La procura che ha indagato ha, in un comunicato stampa, ha dichiarato che, oltre ad aver trovato i cadaveri, sulla scena dello scontro hanno trovato granate, veicoli e diverse armi da fuoco. Non stupisce, sappiamo benissimo che i narcotrafficanti messicani hanno degli arsenali degni, se non superiori per potenza di fuoco, a quelli dei Marines messicani. Polizia e esercito sono stati inviati per pattugliare la regione. È in corso una guerra incredibile che speriamo non faccia ripiombare il Messico nei dolorosi anni, soprattutto il 2006, uno degli anni, degli anni orribili. Dicevo, è in corso uno scontro tra il cartello di Sinaloa e i gruppi affiliati con il cartello di Juarez. aggiungo che nonostante le misure per il contenimento del coronavirus, questo marzo è stato il mese più sanguinoso per il Messico, anche soprattutto per proprio per questa mattanza che sta avendo luogo. Molto probabilmente il record benefico era stato raggiunto nel 97, nel 2020 si batterà quel orribile record, 2585 omicidi, e marzo è stata il mese con la cifra mensile più alta. L'ultimo dossier internazionale che vado a sfogliare, che vi propongo, ve lo ricordo, sono notizie che teniamo d'occhio da settimane, se non da mesi, e che diventeranno approfondimenti di Nessun Luogo è Lontano. Vi porto in Israele perché sembra ancora in alto mare la possibilità di un accordo fattivo, pragmatico, concreto tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, nonostante fosse stata annunciata un'intesa di governo nazionale. Gantz infatti ha chiesto, evidentemente il colloquio si è totalmente arenato, al presidente Rivlin l'intenzione di chiedere un'ulteriore proroga di 2 settimane, quindi si arriverebbe in piena celebrazione della Pasqua ebraica, per poter sistemare un paio di dossier che ancora scricchiolano con Benjamin Netanyahu. Lo ricordiamo, i due partiti, bianco e blu rispettivamente, e Likud. Secondo i media israeliani non ci sarebbe accordo dei due su un paio di punti. Il primo punto è l'annessione di una parte della Valle del Giordano, un punto che entrambi i partiti vorrebbero mettere in pratica, ma Likud vorrebbe accelerare, vorrebbe farlo immediatamente. E poi c'è dissenso sulla carica di presidente della Knesset, cioè il Parlamento israeliano, e vedremo se questa lunga odissea politico-elettorale israeliana giungerà a compimento prima della Pasqua. Stanno arrivando un po' di messaggi al 349-238-6666, qualcuno già chiede come si rapporta l'induismo alla pandemia, così Davide da Trieste, qualcuno che punta il dito già sul Kashmir, ne parleremo tra pochissimo, e dunque è arrivato il momento, Andrea Roccabella, di andare in India. Vi dicevo poc'anzi di come all'inizio l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse dichiarato spettacolare la risposta del governo indiano all'emergenza coronavirus. Infatti fino a qualche tempo fa si registravano 425 casi, 7 vittime e la chiusura delle frontiere, il controllo dei viaggiatori sembrava funzionare. Nulla di più lontano dalla realtà. Ad oggi, secondo la mappa della Johns Hopkins University, in India i casi di coronavirus sono 4.314, i deceduti 118, i guariti 328. Il problema è che il paese, secondo molti esperti, rischia di diventare il prossimo epicentro mondiale della pandemia, perché, sempre secondo questi esperti, vi sarebbero almeno 10.000 casi sommersi. L'India è infatti tra i paesi che ha fatto meno test, ne ha fatti 93, pensate, per milione di abitanti. E sostanzialmente ha riportato solo 3 casi per milione di abitanti. La situazione sanitaria è particolarmente drammatica, 0,5 letti d'ospedale disponibili ogni 1000 persone, la maggior parte di questi sono in aree urbane, c'è una grossa differenza anche tra stati e stati, quindi capite che non è una sanità monolitica con uno standard adeguato in tutti gli stati. A ciò si aggiungono delle previsioni fatte per esempio da un economista epidemiologo indiano, Ramanan Lakshminarayanan, che ha pubblicato su New York Times un lungo editoriale nella quale tracciava uno scenario piuttosto allarmante. Sostanzialmente l'economista ed epidemiologo, assieme a una squadra di ricercatori tra India, Europa e Stati Uniti, ha creato un modello sull'impatto del Covid-19 e lo ha applicato all'India. L'India dovrebbe raggiungere il picco dei contagi nella prima settimana di maggio. Il modello stesso indica che alla fine di luglio gli indiani contagiati saranno tra i 300 milioni e i 500 milioni, la maggior parte, come abbiamo visto in altre parti del mondo, in forma lieve, ma un 10% dei casi, quindi 30-50 milioni di persone, mostrerà sintomi più gravi. Il tutto si intreccia con ulteriori due fattori che vi elenco, che sono innanzitutto lo stato di salute della popolazione indiana e le condizioni del sistema sanitario dei diversi stati stessi. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Rita Cenni, giornalista, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. Rita, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio anzi a questo. Sì, allora Rita, Stiamo assistendo a un lockdown, 3 settimane di chiusura totale, una chiusura peraltro subitanea con pochissima annuncio da parte del premier Modi. Come si fa a chiudere, a mettere in lockdown, ormai si è sdoganato il termine inglese, una nazione di 1.300.000.000 di persone? È molto semplice, non si fa, ovvero si fa come è stato fatto in India, parlando a nemmeno metà degli indiani, nel senso il premier Modi dopo un giorno di prova, una famosa domenica in cui ha detto facciamo questo esercizio, stiamo tutti in casa, un giorno e mezzo dopo ha detto lockdown da domani per 3 settimane, ovvero fino al 14 di aprile. State in casa, uscite solo, come succede peraltro da noi in Italia, dopo le zone rosse in tutto il territorio nazionale. Peccato che appunto è come se il premier Modi, rieletto per la seconda volta l'anno scorso a primavera con una maggioranza sovrastante, avesse dimenticato che l'India è composta da almeno metà delle persone che, uno, lavorano in agricoltura, due, sono lavoratori nemmeno stagionali, giornalieri che, come poi si è verificato, si trasferiscono dalle zone più, dalle zone rurali, che comunque costituiscono la gran parte del paese, nelle metropoli, cercando dei lavori di pura sussistenza. Come fanno queste persone a restare in casa se molto spesso non hanno una casa, oppure se ce l'hanno hanno il famoso giaciglio per la notte condiviso con altri 7, 8, 10? Come fanno le persone che vivono nelle città, ma dentro le città vivono negli slum o nelle colonies più povere, a stare in casa quando la densità abitativa è di 7-8 persone per 10 metri quadrati? Come fa un premier a dimenticarsi di metà del suo paese? Bene, è stato fatto, quindi la risposta a come fa l'India a stare in lockdown è questa: non ci sta, cioè ci sta. Sì, la voce che state ascoltando è quella di Rita Cenni, giornalista e corrispondente dall'ANSA da Nuova Delhi. Ci restituisce una fotografia di una maldestria politica, per essere, come dire, ottimisti e anche edulcorati nell'uso del lessico da parte del premier Modi. Salvo poi le forze di sicurezza, Rita Cenni, ascoltiamo, si sono macchiate molto spesso di violenze e molto spesso, ripeto, gratuite su chi violava il lockdown. C'erano persone che dovevano assolutamente uscire e andare a lavorare, perché se non si esce non si riesce a portare a casa la pagnotta, e questo va inteso in senso letterale. Questi video sono apparsi in tante televisioni, in tanti network internazionali, ma anche e soprattutto sui social. Fatemi andare in diretta da Goa, da Paola Benvenuto, rappresentante del paese di WeWorld. Paola, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, WeWorld è un'organizzazione non governativa, si occupa soprattutto di donne e minori, quindi le fasce della popolazione più vulnerabili, ma in questo momento state mettendo in piedi un progetto che si ricollega in maniera corretta, efficace a ciò che diceva Rita Cenni, cioè tutte quelle persone, lavoratori, migranti, tra questi ve ne sono alcune che hanno dovuto percorrere migliaia di chilometri, lavori stagionali, non solo quelli alla giornata. Molti di essi, dopo il lockdown, in particolare quello ferroviario, si sono trovate costrette a percorrere migliaia di chilometri a piedi e molto spesso anche ammassati. Chi sono questi lavoratori? Ci aiuti a capire, benvenuto, anche numericamente di quanti lavoratori stiamo parlando, perché una massa di migliaia di persone che si muove in situazioni di lockdown è evidentemente anche un pericolo sanitario e non solo per la loro sopravvivenza stessa. Infatti cioè, le statistiche dicono che praticamente ci sono circa 400 milioni di migranti, la popolazione su 1.300.000.000 di indiani, 400 milioni sono migranti, di cui 85% circa sono migranti all'interno dell'India, ovvero si spostano da uno stato ad un altro, no? Cioè dal Karnataka verso Maharashtra, da Karnataka verso Goa, e di solito non lo fanno in modo permanente, perché le differenze, come un italiano che emigra in Germania, non appena può torna in Italia. Lo stesso, i migranti interni dell'India non lo fanno in modo permanente, ma vogliono ritornare a casa non appena possono. Sì. Quindi con questo lockdown, se praticamente facciamo una stima, circa 300 milioni di persone sono rimaste bloccate in un posto senza avere accesso ai servizi essenziali e senza poter anche tornare a casa. Sì. Infatti penso che in Europa siano arrivate queste scene, sì, dell'ultimo treno disponibile per ritornare, questo fiume di persone che, sì, cerca di ritornare a casa, sì, perché di fatto parliamo non solo di lavoratori agricoli ma anche di lavoratori di piccole imprese, di imprese che ovviamente hanno che pagano i salariati in giornata, in settimana, quindi se si chiude il lockdown ha riguardato tutto, non solo le persone a stare a casa ma anche le aziende considerate non essenziali, piccole. Chiarissimo. Okay, quindi se non c'è lavoro necessariamente la persona non ha accesso, certo, al salario e quindi alcuni sono pure rimasti all'interno delle stesse fabbriche. La voce, la perdono, la interrompo. Paola, benvenuto, state ascoltando, cari ascoltatori, la sua voce, rappresentante paese di WeWorld, un'organizzazione non governativa che lavora in svariati paesi, si occupa soprattutto di minori e di donne. Ci sta parlando da Goa e ci sta rendendo conto di una situazione incredibile, e qua mi allaccio all'aspetto più propriamente politico. Torno da Rita Cenni, giornalista corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi, che non è stata tenera nella sua prima fotografia nel raccontare l'inadeguatezza del governo Modi. Come ha reagito l'opposizione, Rita, rispetto a questa mossa di Modi? Ha colto la palla al balzo, attacco feroce o che altro? Guarda, ascoltate, l'opposizione in India ormai è ai minimi termini, lo sappiamo, l'abbiamo visto dopo la sconfitta elettorale dell'anno scorso, li avevamo visti danzare un poco la cresta e l'ottimismo in alcune elezioni di stati, ma c'è poco da dire, hanno poca voce e devo dire purtroppo anche poca credibilità. Cioè in India ci sono molti problemi che stanno attraversando il paese prima ancora dell'emergenza coronavirus, problemi politico e sociali. Uno dei grandi problemi è quello legato alla legge che è stata approvata a metà dicembre, sì, sul nuovo diritto alla cittadinanza, che nei fatti, immagino ne abbiate parlato, sì, dà direttamente la cittadinanza indiana a rifugiati politici tra tre paesi a maggioranza musulmana, ma esclude appunto questo diritto ai musulmani. E su questo l'opposizione, prima appunto dello scoppio dell'emergenza virus, aveva cercato di, diciamo così, affiancare la grande protesta, che però è scoppiata in modo più, diciamo, più autonomo, è stata una protesta civile e indipendente, non organizzata, sì, dai partiti politici. Il più grande partito politico, quello che ha fatto la storia del paese, che l'ha governato per molto tempo, forse troppo tempo, il partito del Congresso, è in gravissima difficoltà. Alcuni esponenti ovviamente hanno criticato le azioni del governo, ma sostanzialmente sul lockdown e sul fatto che fosse l'unica cosa che si potesse fare per cercare di contrastare la diffusione del virus, anche Rahul Gandhi ha dovuto ammettere, sì, che non poteva che essere così. Vorrei aggiungere però una, sì, cosa. Prego, lo stesso Premier Modi, una settimana fa più o meno, non ricordo esattamente la data, si è sentito in dovere di chiedere scusa, non perdono come qualcuno ha scritto, ma ha chiesto scusa agli agricoltori, quindi si è reso conto di quello che stava accadendo, anche perché appunto c'erano queste quasi 1 milione di migranti interni che cercavano di trovare qualcosa da mangiare, di ritrovare una vita tornando nei loro villaggi, certo, e non è stato possibile, certo, li hanno fermati alle varie frontiere interne che ci sono nei vari stati, e l'ultima informazione che è arrivata ufficiale dal Ministero degli Interni indiani è stata che 660.000 persone sono state bloccate e sono attualmente, diciamo così, trattenute in 21.000 campi di accoglienza. È intervenuta persino la Corte Suprema indiana, cioè l'autorità giudiziaria che, sì, dovrebbe essere indipendente, che ha invitato gli stati a un trattamento umano nei confronti di queste persone. Anche perché, Rita Cenni, chiedo scusa, ti interrompo, ma raggruppare persone non è esattamente una pensata, come dire, geniale, per visti i tempi che stiamo vivendo. Avete sentito la voce di Rita Cenni, giornalista corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. Prima di chiudere questa prima pagina voglio tornare però in diretta a Goa con Paola Benvenuto di WeWorld, che sta fronteggiando proprio quell'emergenza che stiamo cercando di tratteggiare. Immaginate, milioni di indiani che devono spostarsi e non possono farlo, vorrebbero fare il ritorno alle loro case e non possono. Voi di WeWorld Che procedura di emergenza, a che tipo di protocollo e di intervento di emergenza state pensando per dare una mano dove potete e come potete? La prima cosa che abbiamo fatto è cercare di raggiungere telefonicamente tutte le persone con cui siamo in contatto e le autorità di villaggio, le autorità sanitarie proprio a livello più di Taluca, no? Dell'ultima circoscrizione appunto delle zone appunto più rurali e assicurare che avessero l'informazione corretta, perché appunto la superstizione potrebbe creare ulteriori danni e capire se effettivamente ci sono persone con dei sintomi, se effettivamente appunto il virus ha raggiunto almeno le zone in cui noi arriviamo e assicurare che i protocolli base, no, appunto di igiene e appunto di riportare all'autorità sanitaria i casi effettivamente appunto gravi. Per fortuna, cioè, noi copriamo circa 300.000 persone, non abbiamo nessun caso riportato, poi se effettivamente sia così è difficile da stabilire. Il secondo passaggio sarà quello, non appena il lockdown, la prima fase sarà over, di fare un assessment della situazione ed assicurare che ci sia un'alternativa produttiva per le persone che rientrano. L'85% della popolazione è agricola, quindi assicurare che abbiano la possibilità, compatibilmente con le misure adottate dal governo, di ritornare e di poter effettivamente fare un'attività produttiva, almeno essenziale. E la fase successiva, pensare delle attività che eventualmente possono supportare l'intervento del governo. Ad esempio abbiamo dei VTC, dei centri in cui insegniamo alle ragazze a cucire, iniziare anche la produzione delle mascherine, cose molto belle per assicurare almeno non che un'emergenza sia di attendere interventi e sovvenzioni, ma di reagire e trovare appunto una forma resiliente di reazione della popolazione, che comunque è una popolazione attiva. Vorrei solo fare una precisazione, l'informazione rispetto alla pandemia, quello che spaventa di più è la fascia di età delle persone malate, che è decisamente più bassa, riflette un po' insomma la fotografia demografica dell'India, però è un qualcosa di nuovo rispetto alla pandemia di altri paesi. Fra l'altro è una cosa che stiamo osservando, ci sono allarmi di ritorno dall'est del mondo che spiegano come l'età si starebbe abbassando, ma ovviamente sono tutte informazioni che al momento la scienza sta cercando di valutare per capire l'evoluzione del virus. Quest'oggi a Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo anche l'evoluzione della politica indiana. L'abbiamo fatto in questa prima pagina con Rita Cenni, giornalista corrispondente dell'ANSA di Nuova Delhi, che ringrazio, e con Paola Benvenuto in prima linea in questa emergenza nell'emergenza, migranti indiani, cittadini indiani che immigrano internamente a questo enorme stato continente e si trovano poi bloccati perché si è fermato il treno. Grazie mille, benvenuto, grazie mille Cenni. Andrea Rocabella, cosa dice? Andiamo a sentire le borse, e poi però facciamo prendere ai nostri ascoltatori un treno, perché se dici India normalmente dici treno, la borsa intanto. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano parte intanto dai vostri commenti e dalle vostre reazioni al racconto di quest'oggi. Cerchiamo di, come dire, in poco meno di un'ora di raccontarvi 1.300.000 persone che adesso si trovano a fronteggiare a tutti gli effetti l'emergenza coronavirus. Temo che solo in un paese come l'India l'immunità di gregge prenderà la sua strada spontanea, così Francesco chiamava il Kashmir una spina nel fianco nel governo di Modi. Qualcuno dice normale che l'età media dei malati indiani sia bassa, loro hanno il 6% di popolazione oltre i 65 anni, noi il 28, hanno un'aspettativa di vita di 68 anni contro i nostri 84. Qualcun altro, esperienza diretta personale, ragazzi indiani che lavorano come stagionali da me in agricoltura, scrive un ascoltatore, adesso sono in India e molto preoccupati per la situazione interna. Continuate a scrivermi al 349-238-6666. Vi faccio sentire la voce, probabilmente a noi, la maggior parte di voi non dirà moltissimo questa voce, eppure lui è un attore, un regista, un produttore, su Twitter ha 15 milioni di follower, è una vera star a tutti gli effetti della grande industria cinematografica indiana. Si chiama Bollywood e lui è Anupam Kher. Sentite cosa dice. put your hand together so you don't get infected, you don't have this fear of getting any infection. It's much better. It also puts your energies together rather than shaking hands or hugging each other for some time. I think it's important that we are careful. Namaste. Così, con questo breve video, breve messaggio su Twitter, anche le star di Bollywood si mobilitano, dicono sostanzialmente smettetela di stringere le mani, il saluto indiano, il namaste con le mani conserte di fronte al petto, beh, è un modo molto sano per salutarsi e rispettare anche le tradizioni. Perché vi ho portati a Bollywood? Ma per darvi semplicemente un paio di cifre che sono particolarmente indicative. I set cinematografici ovviamente rimarranno chiusi, mentre le prime dei film in programma sono state sospese a tempo indefinito. 230.000 persone almeno lavorano nell'industria di Bollywood, e Mumbai, pensate, con l'industria cinematografica produce il 37% della ricchezza indiana. Detto ciò, come promesso, Andrea Roccabella, prendiamo il biglietto, ci avviciniamo alla banchina e prendiamo un treno. È la mattina del 16 aprile 1853 e tra l'immensa distesa della città di Mumbai, che allora si chiama ancora Bombay, e le gole di Thane, l'India ascolta qualcosa di inaudito. È lo sbuffo del primo treno passeggeri della storia indiana. Il convoglio a vapore, composto da 14 vagoni e 3 locomotive, percorre i 34 km da Bombay a Thane in oltre un'ora, portando a destinazione i primi 400 passeggeri. Da allora, in 167 anni, i treni sono diventati un elemento cardine dell'immaginario indiano, delle sue migrazioni epocali e affollatissime, dei suoi spostamenti attraverso un paese vasto come un continente. Indian Railways, l'operatore ferroviario indiano, non si era mai fermato, nonostante guerre, sconvolgimenti politici e rivoluzioni. I treni indiani non avevano mai smesso di sbuffare fino al 25 marzo 2020. In poche ore, il primo ministro indiano, Narendra Modi, annuncia il completo blocco del paese e i treni della sterminata rete indiana rimangono paralizzati. Oltre 67.000 chilometri di linee ferroviarie, abbastanza per circumnavigare l'equatore una volta e mezza, sono fermi e adesso stanno per diventare qualcos'altro, qualcosa di adatto a un'epoca di emergenza. Now, in a bid to tackle coronavirus pandemic, the Indian Railways has introduced isolation coaches for COVID-19 patients there. Indian Railways sta trasformando circa 20.000 vagoni in disuso in altrettanti ambulatori per contagiati da coronavirus. L'operatore gestisce 125 ospedali in tutta la nazione e ha l'esperienza necessaria a questa conversione, ma le ricadute economiche saranno comunque enormi. Mentre vengono approntati servizi sostitutivi su Pullman, che stanno comunque generando diversi problemi, Indian Railways, che è il primo datore di lavoro del paese, non riaprirà prima del 14 aprile. Il coronavirus ha fermato le ferrovie indiane. Neanche gli attentati di Mumbai, che nel novembre 2008 provocarono centinaia di vittime e seminarono il caos in città per giorni, erano riusciti a farlo. Forse non c'era niente di più iconico per raccontare lo stato di emergenza in India, quel blocco dei treni, ormai stiamo parlando di 2 secoli fa, quando iniziava i suoi trasporti la Indian Railways. Il tutto evidentemente avrà delle ricadute economiche. Abbiamo raggiunto, l'ha fatto Ilaria Sesana poche ore fa, una economista, Jayati Ghosh, professoressa di economia alla Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi, è esperta di economia dello sviluppo ed è considerata una degli economisti più influenti al mondo. Che impatto sta avendo il lockdown sulla popolazione indiana e in particolare sulle fasce più povere? Sentite. This has already had a terrible impact on the economy and on the poor. Le misure di blocco totale stanno già avendo un terribile impatto sull'economia e specialmente sulle fasce più povere della popolazione, perché è un blocco totale che riguarda tutte le attività economiche. Molte persone hanno perso il lavoro, altri sono stati licenziati e molti hanno perso la casa. In questo momento in India circa l'85% dei lavoratori non sta ricevendo nessun tipo di salario. E questo ovviamente ha implicazioni devastanti, non solo per coloro che hanno perso il lavoro e sono costretti ora a vivere in condizioni insalubri a causa della povertà, dove aumenta il rischio di contrarre l'infezione, ma anche per la restante parte della popolazione, dato che stiamo registrando una carenza di forniture, perché molti beni essenziali come cibo e medicine non vengono adeguatamente distribuite e la produzione stessa, in molti casi, si è fermata. Quindi il lockdown sta avendo ripercussioni molto pesanti. So it's an extremely painful measure. Questa è la fotografia, il punto di vista, l'approccio strettamente economico da un economista, Jayati Ghosh, la Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi, lo ripeto, un influente economista. Proviamo a mettere il grand'angolo, lo facciamo con qualcuno, una figura accademica che si occupa di storia moderna dell'India, ed è Elena Valdameri, adesso ricercatrice all'Università di Erfurt. Dottoressa Valdameri, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, non è ancora emergenza sanitaria, potrebbe esserlo, potrebbe diventarlo secondo i numeri. Sicuramente sarà emergenza economica. Ci aiuta a connotare gli altri aspetti, gli altri lati di questa emergenza che sta vivendo l'India, che vivrà ragionevolmente nelle prossime settimane? Sì, mi ricollego certamente a quanto diceva nell'estratto Jayati Ghosh, perché credo che l'aspetto più preoccupante di questa crisi siano certamente le ricadute sociali nel breve, medio e lungo termine. Diciamo che il rischio è quello di vedere un'emergenza sanitaria trasformarsi in una crisi umanitaria. Infatti appunto si diceva come centinaia di migliaia di persone abbiano perso il lavoro con il lockdown imposto il 24 di marzo. Sì. Si tratta appunto di lavoratori migranti nelle grandi città dalle zone rurali, sono circa 50 milioni che ogni anno si spostano, che appartengono al settore informale, cioè non hanno né contratti né ammortizzatori sociali. Sono persone quindi che vivono di giorno in giorno con il salario giornaliero e non solo non hanno risparmi, ma con la perdita del lavoro si sono trovati anche senza casa e senza cibo, perché molto spesso i lavoratori vivono e mangiano sul luogo di lavoro, per esempio cantieri edili, ristoranti e negozi. Questo significa in poche parole che questi disoccupati si sono aggiunti alle centinaia di migliaia di persone senza tetto già presenti in India. Una stima per difetto li colloca intorno ai 2 milioni. Sì. Abbiamo visto nei giorni scorsi queste immagini drammatiche di lavoratori migranti che cercavano di tornare ai villaggi di origine a piedi, perché i trasporti tra gli stati dell'Unione Indiana sono stati sospesi. Alcuni stati hanno organizzato servizi di trasporto speciale, qualcuno è riuscito a tornare con il rischio oltretutto di diffondere il contagio in zone del paese dove l'accesso alle strutture medico-sanitarie è molto limitate. Altri sono rimasti bloccati nella città dove molti dei servizi di supporto ai poveri come cucine e dormitori hanno interrotto l'attività, si trovano nell'impossibilità di far fronte alla crisi viste i numeri e molto spesso sono addirittura impedite dalla polizia per eccesso di severità nell'attuare il lockdown. Sì. Il governo ha stanziato circa 20 miliardi di euro, se non sbaglio, in aiuti economici e distribuzione di cibo per i disoccupati. Sì. Non è ben chiaro però se i lavoratori del settore informale, che sono la maggior parte della workforce indiana, siano in grado di avere accesso a questi aiuti, perché pare sia necessario essere registrato a database nazionali, ma non è sempre il caso della manodopera informale. Certo. Si capisce quindi che effetti devastanti potrebbe avere questa crisi su un paese in cui le divisioni sociali sono già profondissime. Certo, state ascoltando la voce di Elena Valdameri, ricercatrice di storia moderna dell'India. Ha citato questi 20-23 miliardi per sostenere l'economia indiana. Abbiamo fatto questa domanda proprio a Jayati Ghosh per cercare di comprendere se questi 23 miliardi, che forse a un occhio occidentale possono sembrare briciole per 1.300.000 persone, ma insomma la domanda è: sono sufficienti? Sentite cosa dice l'economista. Well, first of all, the amount that she announced is actually. Innanzitutto bisogna sottolineare che l'importo annunciato dal ministro non è corretto. È molto inferiore a quella cifra. Il ministro ha annunciato un pacchetto di aiuti pari a circa 17.000 miliardi di rupie. Di questi, circa il 40% riguarda soldi che sono già stati spesi. Quindi, in concreto, si tratta di un importo molto più basso. I nuovi stanziamenti, in realtà, sono pari allo 0,5% del prodotto interno lordo, che non è nulla. Quella indiana è un'economia in fase di declino. Avevamo bisogno di molta più spesa pubblica, di trasferimenti diretti di denaro a tutti quei lavoratori che in questo periodo non vengono pagati, e anche gli agricoltori avevano bisogno di ricevere più soldi. Avremmo avuto bisogno di un importante stimolo fiscale che non c'è stato. In realtà, il modello di spesa messo in atto dal governo sta peggiorando la situazione invece di migliorarla. The government spending pattern is actually making things worse, not better. Questa è la voce di Jayati Ghosh. Vengo alla vostra voce virtualmente, evidentemente mi state dando conto delle vostre sensazioni, delle vostre opinioni al 349-238-6666. C'è qualcuno che scrive: penso che questo virus, che dicono colpire tutti senza distinzione di censo, nel lungo periodo sterminerà poveri e abbandonati. Così Ferdinando da Bologna. Io tra pochissimo tornerò a proposito di queste metafore a volte apocalittiche. Molto spesso ci si sta appoggiando a quella che è la metafora bellica, no? Si dice siamo in guerra, è come una guerra. Beh, l'India ha vissuto delle grandi cesure storiche, fra poco ve le farò raccontare dalla nostra ospite Elena Valdameri, non prima di aver sentito come va la viabilità italiana. State con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Tra poco tireremo un po' le somme della situazione in India, non prima anche di aver acceso i riflettori sulla questione Kashmir. Intanto vi faccio sentire ancora la voce di Elena Valdameri, ricercatrice di storia moderna dell'India all'Università di Erfurt. Dicevamo, l'uso della guerra anche dal punto di vista lessicale. Quali grandi cesure storiche può l'India ricordare per in qualche modo appoggiarsi, avere un riferimento anche culturale e forse di unità nazionale per superare questa crisi, Valdameri? Sì, diciamo che Narendra Modi ha fatto riferimento alla guerra contro il coronavirus come una sorta di opus pacis che può unire la nazione, parole che suonano quantomeno ironiche dal momento che sono dette da un premier che ha fatto del fondamentalismo il suo cavallo di battaglia. Sì. In realtà vedremo poi come perdurano i forti sentimenti islamofobici anche in questo momento, dovrebbe essere in teoria di unione. Diciamo che il riferimento storico che più facilmente viene in mente legato alla guerra è la carestia in Bengala nel 1943, appunto durante la Seconda Guerra Mondiale, e che può insegnare qualcosa. Cosa può insegnare? Ce lo dice Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, che ha spiegato, trattando appunto di questa carestia, che molto spesso in tempi di crisi è il difficile accesso alle risorse, più che la mancanza di risorse stesse, ad uccidere gli strati più vulnerabili di una società. Le cause sono sempre sociopolitiche, ovvero quelle leggi e quelle politiche che rendono difficile ai poveri ottenere il necessario per sopravvivere, oppure l'accumulo di cibo da parte delle classi ricche che fanno impennare l'inflazione, il razionamento inefficace. Questa è certamente una lezione che il governo indiano dovrà tenere a mente, cercando di fare arrivare rapidamente gli aiuti in contanti ai bisognosi, in modo che abbiano facile accesso ai beni essenziali. Sì. Un altro evento storico con cui ci si può collegare, e da cui si potrebbe effettivamente imparare, l'influenza spagnola, che in India fece tra i 17 e i 18 milioni di morti, circa il 6% della popolazione di allora. Tenendo ben presente le differenti condizioni mediche a distanza di un secolo, naturalmente, ci sono somiglianze. Intanto il governo coloniale prese misure simili all'odierno social distancing, ma fu poi la società civile con ONG e volontari ad attivarsi con iniziative di sensibilizzazione pubblica, aperture di piccoli ospedali locali, distribuzione di medicine, raccolte di fondi da distribuire ai bisognosi e via dicendo. Queste iniziative hanno ancora molto senso di esistere nell'India di oggi. Sì, è incredibile, sentendo le parole di Elena Valdameri, come davvero la storia maestra di vita e possa, nel caso di grandi cesure, di eventi eccezionali e straordinari nel senso stretto del termine, davvero proporci degli insegnamenti, delle regole di comportamento, chissà, forse delle lezioni è un po' troppo. Allora, il governo, le mancanze del governo in India nella gestione sono soprattutto per il momento economiche. Vi faccio risentire l'ultima parte della lunga intervista fatta a Jayati Ghosh. Secondo l'economista indiana, il governo dovrebbe immediatamente immettere nell'economia informale almeno 7.000 rupie. Ma il governo ha davvero la volontà di farlo? Ce la farà? Sentite cosa dice l'economista. Unfortunately, so far it appears that the government hasn't really understood. Purtroppo, fino ad ora, sembra che il governo non abbia veramente compreso le dimensioni di questa sfida e nemmeno la natura di questa catastrofe. Sembra che il governo non stia facendo nulla nemmeno per gestire l'epidemia, perché al momento tutto quello che abbiamo visto sono gesti simbolici. Picchiare pentole e padelle a una certa ora, chiedere di spegnere le luci e accendere una candela. Queste non sono le cose di cui abbiamo bisogno da parte di un governo. Abbiamo bisogno di un governo che ci dica quanti soldi ha messo per la sanità, per il reperimento dei kit medici e delle medicine, per le mascherine, che ci dica quanti medici e operatori sanitari stanno ricevendo assistenza, quanti ospedali sono stati attivati, quanti letti e quanti ventilatori sono disponibili. Il governo non sta dando queste informazioni e non sta mettendo i soldi che servono per rilanciare l'economia. Questa è la voce di Jayati Ghosh, economista, docente universitaria. Secondo il Guardian, uno degli economisti più influenti della nostra epoca e si occupa soprattutto di economia e di sviluppo. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666 che stigmatizzano, per esempio qualcuno dice nel caso di rivedere la politica demografica, qualcun altro stigmatizza quell'abbandono da parte di Modi della Costituzione così laica e secolare che aveva permesso la convivenza di tanti credo. L'abbiamo raccontato tante volte qui nel suo luogo lontano, questo nazionale. Il nazionalismo indù ha sicuramente messo in un angolo tante minoranze, fra cui quella musulmana, e in particolare poi c'è il buco nero del Kashmir. In totale lockdown, non è un caso che usiamo questa parola, da agosto, perché ad agosto sostanzialmente non si poteva, da agosto, né entrare né uscire, ma soprattutto comunicare. Ci soccorre ad analizzare in quest'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano Francesca Recchia, dirige l'Istituto Culturale di Cultura Afgano a Kabul, esperta di Kashmir, ha vissuto in India e si occupa soprattutto di arte in zone di conflitto. Questo è un conflitto un po' diverso, però Francesca, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno. Allora, un doppio lockdown è come se parlassimo di emergenza nell'emergenza, parlando del Kashmir in questo momento così drammatico, Francesca. Sì, in Kashmir c'è, come dicevi, c'è una sorta di assedio digitale che va avanti dal 5 di agosto. Adesso, a partire dal 24 di gennaio, è stato restaurato l'accesso al 2G, quindi c'è un accesso a internet lento, che molti medici del Kashmir lamentano per avere proprio mancanza di accesso alle informazioni in tempo reale. Sì. La questione di mancanza di accesso alle informazioni sta creando ovviamente dei grossissimi disservizi, certo, sia a livello di informazione medica, ma anche di diffusione delle nozioni di base sui comportamenti diciamo civici che la popolazione deve seguire. Sì, la voce che state ascoltando adesso, proviamo a recuperare la linea che non ci ha soccorso tantissimo, quella di Francesca Recchia, che ben conosce il Kashmir, ha anche fonti molto affidabili in loco e, quando la rete lo permette, ha una visione, uno sguardo privilegiato su quella regione contesa tra India e Pakistan, una regione dove il pugno forte di Narendra Modi si è fatto sentire particolarmente negli ultimi mesi. Un Narendra Modi che non nasconde evidentemente di alimentare anche una certa islamofobia. Però, dottoressa Valdameri, la cronaca gli ha dato un destro formidabile, perché il 13 marzo, con il raduno annuale di due giorni di questa setta musulmana Tablighi Jamaat, sono arrivate 3.500 persone da tutto il paese, vi erano dei coronavirus positivi, vi sono stati decessi, sostanzialmente sono stati un vero e proprio focolaio che è stato un'arma formidabile però politicamente nelle mani di Valdameri, nelle mani di Modi. Sì, è verissimo. Pare che quantomeno secondo i dati ufficiali 1400 casi dei 4300 registrati ad ora siano collegabili a questo evento organizzato dalla Tabligh Jamaat. Sì. Chiaramente fatto preoccupante da un punto di vista medico-sanitario, perché è ormai troppo tardi per arginare il contagio e tracciare i contagiati, ma anche da un punto di vista politico, perché aggiunge un altro livello di criticità in un paese in cui la violenza contro la minoranza musulmana è una triste realtà, come sì. diceva giustamente lei. Sì. Non a caso, quando si è diffusa la notizia di questa congregazione, sono circolati velocemente su internet hashtags, vignette, fake news islamofobiche, addirittura emissioni televisive hanno mandato in onda servizi da titoli come "Salviamo il paese dal corona jihad" e un ministro del partito al governo BJP ha condannato il fatto come crimine talebano. Sono chiaramente dei fatti che certo. Fanno ancora più paura se vista alla luce degli scontri intercomunitari accaduti a Delhi poco più di un mese fa. Sì, soprattutto perché mi permetto di interrompere Elena certo. Valdameri, lo ricordo, ricercatrice esperta di storia moderna dell'India, la comunicazione politica, non smetteremo mai di ribadirlo, così come quella giornalistica, per carità, in questi periodi di emergenze, di crisi, deve essere il più possibile sobria, aderente alla realtà, verificare i fatti, non dare adito a qualsiasi sussurro possa girarsi nel web, né tantomeno evidentemente andare a utilizzare una diversa appartenenza a un credo religioso come formidabile leva politica. Ma Narendra Modi ci ha abituato negli ultimi anni a questa strategia, questa tattica. Una delle altre strategie del governo di Delhi è come dire, mettere a un certo punto, Francesca Recchia, torno da te, in un limbo la cittadinanza, e succede nel nord-est del paese, in particolare ad Assam, dove improvvisamente alcuni cittadini è come se avessero visto la loro carta di identità evaporare. Se riesci in un minuto e mezzo, che cosa sta accadendo? Francesca Recchia. Quello che si passa è che è stata definita, è stato menzionato anche prima è stata definita una nuova regola di cittadinanza. A questa regola di cittadinanza è stato connesso un registro della popolazione che per iscriversi è necessario dimostrare di essere effettivamente cittadini indiani, e quindi dimostrare di avere per 3 generazioni documenti che provino che le generazioni precedenti sono effettivamente di nati e vissuti in India. Sì. Soprattutto per i poveri questa è una cosa assolutamente impossibile. Certo. Tra l'altro chi è stato vittima di alluvioni, di migrazioni interne, è inverosimile che possegga documenti di così tanto vecchi. Queste persone che non sono state in grado di provare la propria cittadinanza sono state messe in sospeso, in attesa di giudizio, e sono state dichiarate aliene, stranieri in patria. Molti di questi, in Assam in particolare, ma in altri posti in India anche, sono stati quasi arrestati, praticamente sono stati detenuti in dei centri di detenzione, che in Assam in particolare, nella maggior parte dei casi, sono degli stessi edifici delle carceri. Ecco, che non è esattamente la seconda volta che dobbiamo ribadirlo, un'idea particolarmente efficace e strategica in un periodo di emergenza coronavirus, delle persone alle quali stai facendo un procedimento per valutare la cittadinanza, metterle in un carcere, quindi ulteriore assembramento. Il tempo è quasi scaduto, mi tocca ringraziare, lo faccio con piacere, Francesca Recchia, Elena Valdameri, per essere stati con noi. Per Andrea Roccabella scommetto che ci sarà solo una parola. E per voi naturalmente i ringraziamenti per essere stati all'ascolto in questa prima puntata di Nessun Luogo Lontano. Un ringraziamento a tutta la squadra. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.